giallo e nero. Tra i misteri della cronaca con Daniele Biacchissi. Settembre 1975. L'estate è già un ricordo sfumato nel parco del Circeo, 80 chilometri a sud di Roma. Le belle ville si nascondono tra piante secolari, arbusti e prati. Si raggiungono percorrendo cammini non asfaltati e strade che lambiscono al mare. La villa della famiglia Ghira si trova proprio nel parco del Circeo. Il padre è un importante costruttore edile. La madre è una casalinga e poi c'è Andrea, 22 anni, violento e criminale. Nei primi anni 70 Andrea Ghira è un giovane militante di Avanguardia Nazionale, una formazione della destra eversiva guidata da Stefano Delle Chiaie, sciolta poi nel 1974. Al liceo Giulio Cesare di Roma, Ghira è leader di un gruppo che teorizza il crimine come mezzo di affermazione sociale. Il suo riferimento è Jacques Berenguer, un marsigliese responsabile di sequestri di persona avvenuti a Roma tra l'aprile e l'agosto del 1975. La fedina penale di Andrea Ghira è sporca, risulta più volte condannato per lesioni aggravate, rapina, ricettazione e violazione di domicilio. Ma lui vive con la famiglia nel quartiere residenziale del Parioli, a Roma. La sua camera è tappezzata di bandiere naziste, mezzi busti di Adolf Hitler e Benito Mussolini, libri del filosofo Julius Evola. La pistola, la sua pistola, è già al sicuro sotto il materasso. Si dichiara nazionalsocialista. Andrea Ghira ha due amici, estremisti e delinquenti come lui. Gianni Guido, 19 anni, iscritto al primo anno di architettura, vive nel quartiere Nomentano in un elegante palazzo tra Villa Paganini e Villa Tortonia. Il padre è un alto dirigente di un istituto di credito. Angelo Izzo, 20 anni, figlio di un ingegnere edile, iscritto a medicina. Izzo è conosciuto per la sua prepotenza e le sue teorie sulla divisione in classi. Secondo Izzo ci sono i dominanti, i poveri cristi e i pidocchiosi. A Circeo la famiglia Ghira ha costruito una villa lussuosa su due piani con giardino, box e taverna, poco lontano dalla costa, con una vista mozzafiato sull'isola di Ponza. È lì che Izzo e Guido portano due ragazze provenienti dai quartieri periferici di Roma. Rosaria Lopez, 19 anni, non ha finito le scuole medie. Vive con il fratello, la sorella e i genitori anziani e malati in due stanze, in via di Grotta Perfetta, all'Adriatino. Donatella Colasanti, coetanea di Rosaria Lopez, padre impiegato, madre casalinga, un fratello di un anno più grande di lei. Andiamo ad una festa alla vigna. Ci divertiremo, vedrete, dicono Guido e Izzo alle due ragazze. Ma a Lavigno Donatella e Rosaria non arriveranno mai. Raggiungeranno invece Villa Moresca, nel Circeo, la villa di Ghira. Il resto si snoda lungo 36 ore di torture morali, fisiche, sessuali. Ghira, Izzo e Guido uccidono Rosaria Lopez e colpiscono Donatella Colasanti. A quel punto pensano che le due ragazze siano morte. Le avvolgono in sacchi di plastica, le caricano nel bagagliaio della 127 di Guido e fanno ritorno a Roma. Parcheggiano l'auto sotto l'abitazione dello stesso Guido in via Pola e vanno a mangiare in pizzeria. Ma Donatella Colasanti è ancora viva. Si accorge che l'auto è stata abbandonata. La sua voce richiama l'attenzione di alcune persone che aprono il bagagliaio dell'auto. Donatella è salva, per Rosaria non c'è nulla da fare. E Donatella, qualche ora dopo, offrirà questo racconto ai giornalisti giunti in ospedale. Dovevano infilarci un intorno al collo cercavano di mettere un laccio, mi tiravano, e poi vedendo che non riuscivo a morire, una persona sbrangata con la testa, e dicevano sempre, questa qui, Madonna, resiste troppo, quando è che muore? In questo momento lei ha fatto finta di essere morta. Sì, dice casomai, dopo gli diamo una spistolettata, quando mi hanno messo in quattro pagai, dice finalmente è morta. Vittime e carnefici. Pariolini, figli della borghesia romana di destra contro ragazze che vivono nei quartieri popolari della capitale. Quelli tirati su in fretta negli anni della speculazione edilizia e del boom economico, come ricorda Giovanni Columba, giornalista e scrittore. Questi ragazzi che poi erano ragazzi di tutti i giorni, ragazzi nei quali si poteva riconoscere una gran parte della città, erano Pariolini, Piazza Euclide, insomma ragazzini per bene, di questi che giravano con gli automobili, con le prime motociclette, e le ragazze, anche loro, erano personaggi normali, comuni, non c'erano ambienti diversi, non c'era la politica, era la vita quotidiana, nella quale si rifletteva la vita dei lettori, e quindi la consapevolezza che questo sarebbe potuto accadere a tutti, ai figli di tutti, ai fratelli di tutti, ha provocato in quella circostanza veramente uno shock nuovo di fronte al delitto e al male che si configurava in un modo fino allora forse visto al cinema, ma nemmeno questo disprezzo della vita umana, questo sadismo nell'infliggere sofferenze gratuite. Che era un film dell'orrore, è stato uno dei primi film dell'orrore di cui la cittadinanza è venuta a conoscenza attraverso un fatto vero. Dopo il delitto del Circeo vengono arrestati Gianni Guido e Angelo Izzo. Andrea Ghia riesce invece a fuggire e la giustizia farà il suo corso. Lungo l'iter giudiziario si svolgerà sull'onda dell'emozione popolare suscitata da un delitto così efferato. Il processo si svolge nel luglio del 1976. I giudici non concedono alcuna attenuante ai tre imputati che vengono condannati in primo grado all'ergastolo per omicidio pluriaggravato. Gennaio 1977. Gianni Guido e Angelo Izzo cercano di evadere dal carcere di Latina, prendono in ostaggio una guardia carceraria, ma il tentativo fallisce. Al processo d'appello, il 28 ottobre 1980, i familiari di Rosaria Lopez accettano il risarcimento offerto dalla famiglia di Gianni Guido. Il fatto induce la corte a ridurgli la pena a 30 anni di reclusione. Ripercorriamo dunque i mesi drammatici del processo di primo grado. Nelle aule del Tribunale di Roma, Angelo Izzo parla davanti a Donatella Colassanti, uno davanti all'altra. Ora l'interrogatorio ha detto addirittura che era contraggiata per giustificare questa pistola che l'ha tirata fuori subito, per dimostrare che non ha mai avuto nessun rapporto sessuale con noi, senza costrizione, senza confronto. È un vigliacco e basta. Abbiamo avuto fai grandi con noi che eravamo ragazzine, che eravamo piccole. Però adesso tremano, vanno a porte chiuse quando devono parlare. Sono stupida farsa che si vede benissimo che recita. Recita pure male. Perché? Perché si vede. E durante le udienze fuori dal tribunale, migliaia di donne, di femministe, trasformano quel processo per stupro in uno strumento per la loro liberazione. Yeah. Anita Pasquali, leader del movimento femminista, ricorda che il processo per il delitto del Circeo trasformò le coscienze delle donne che chiesero ed ottennero di costituirsi parte civile. C'era una parola d'ordine che è stata quella che ci ha tenute unite, che per lunghi anni ha tenuto in piedi anche per quanto possibile il movimento per la legge, e ancora oggi in fondo riaffiora nelle nostre attività, che era: per ogni donna stuprata e offesa siamo tutte parte lesa. Questa era una parola dove dentro c'era, ecco, una trovata solidarietà e identificazione tra le donne, le più lontane, diciamo, dalla possibilità di uno stupro, e quelle invece che la vivevano più da vicino o che ci unificava tutti. Poi si giunge alla requisitoria del pubblico ministero Vito Giampietro, che formula considerazioni generali. Io vi esorto a svolgere il vostro mandato con serenità, con obiettività, con umiltà, ma anche con fermezza, con coraggio, con severità, ricordandovi che giustizia è essenzialmente equilibrio e proporzione tra violazione commessa e sanzione da irrogare. E alla fine entra nei particolari, muove precise accuse e risponde così ai difensori di Gianni Guido e Angelo Izzo, che chiedono una perizia psichiatrica nei confronti degli imputati. Non vi è follia nel comportamento di Guido e di Izzo e di Ghira, aggiungo. Non vi è la follia che ottunde il sentimento, che ottenebra la volontà, che obnubila il cervello. Il delitto è lucido, freddo, spietatamente voluto per il perseguimento di un fine ben determinato. E proprio in quel momento, proprio in quel preciso momento, Andrea Ghira dalla sua latitanza invia un bigliettino ai camerati Angelo Izzo e Gianni Guido. Si vanta di avere protezioni importanti. Vi farò scacciare di tutti in breve tempo, dice Ghira. Poi minaccia di morte Donatella Colassanti. Enzo Rava, giornalista e scrittore, un veterano della cronaca romana, se lo ricorda bene quel passaggio del processo. In realtà il superuomo Andrea Ghira doveva avere ben scarsa stima della propria personalità, se sentì il bisogno di aggiungere al proprio cognome quello del noto bandito marsigliese Berenguer, e sbagliò anche nelle previsioni, anzi mancò alle promesse fatte ai due complici in carcere di farli fuggire. Infatti ci restarono e nel 1980 la Corte d'Appello confermò l'ergastolo per Izzo e per Ghira, portando la pena per Guido a 30 anni. Questa sentenza venne l'anno successivo, nell'81, dalla Corte Suprema di Cassazione. In verità Andrea Ghira non fu mai ritrovato, scomparve nel nulla. Per coloro che credono ai mostri dobbiamo commentare che i mostri non nascono da soli, hanno bisogno sempre di complicità, soprattutto quando restano poi liberi. Giallo e nero, tra i misteri della cronaca, con Daniele Biacchissi. E i familiari di Gianni Guido e Angelo Izzo avevano offerto soldi alla famiglia di Rosaria Lopez, ma il padre li ha rifiutati. «Vogliamo solo giustizia», ha detto al compianto Giuseppe Marrazzo, straordinario inviato del TG2 della RAI. Quanti figli ha, signor Lopez? Erano 8 figli, adesso sono 7. Non c'è stato un padre o una madre che siano venuti a chiederle perdono? Nessuno si è presentato a chiedere nemmeno perdono, niente, perché ci manca anche il coraggio a chiedere il perdono, perché si deve anche vergognare. È vero che le famiglie degli imputati le hanno offerto un risarcimento. Sì, i familiari per potersi liberare dell'ergastolo hanno offerto dei soldi e che io non ho bisogno di questi soldi, ossia che venga fatta giustizia. Gianni Guido e Angelo Izzo. Le loro storie sono costellate da evasioni da carceri di massima sicurezza, riuscite grazie ad una rete di protezioni e complicità quasi mai accertate in sede penale. Gianni Guido viene subito trasferito nel carcere di San Gimignano. Da quel penitenziario fugge nel 1981. Due anni dopo viene arrestato a Buenos Aires. Sotto falso nome vende automobili. Ricoverato in ospedale in attesa di estradizione, il 15 aprile 1985 Guido riesce a dileguarsi. Sarà nuovamente intercettato nel giugno 1994 a Panama e trasferito definitivamente in Italia, dove sta scontando il residuo di pena. Anche per Angelo Izzo la fuga resta l'unica arma per sottrarsi alla giustizia. Izzo riesce ad evadere dal carcere di Alessandria il 25 agosto 1994, per essere poi rintracciato in Francia il 15 settembre successivo. Negli anni 80 e 90 Angelo Izzo si trasformerà in un collaboratore di giustizia. Sarà ascoltato da magistrati, giudici, polizia giudiziaria nell'ambito delle indagini sulle stragi neofasciste dal 69 all'84 e sui delitti eccellenti della mafia politica. Rivelazioni confermate solo in parte in sede processuale. Izzo parlerà del suo pentimento a Milano, aula bunker di San Vittore, nel 2000. Durante il processo di primo grado sulla strage di Piazza Fontana. Il motivo principale è che entrò in crisi in qualche maniera l'immagine che avevo di me stesso, cioè dopo undici anni di carcerazione io naturalmente non mi trovavo più in quell'abito in cui che mi ero cucito addosso, diciamo un po' diciamo di cattivo tra virgolette, ed incontrai un magistrato come il dottor Vigna che seppe cogliere magari dei sintomi di crisi, diciamo proprio di crisi personale che vivevo, poi probabilmente anche la speranza di qualche beneficio, insomma di ricostruirmi una vita, certamente ha avuto, anche se non c'erano leggi, non c'era niente, insomma, quindi diciamo, poi ha avuto un'influenza, una speranza così diciamo anche non razionale, non proprio naturalmente, ecco, queste più o meno possono, proprio diciamo dette in pochissimo, anche la crisi politica che cominciava a non credere più in quel tipo di ideologie in cui avevo creduto, diciamo, oggi ne sono assolutamente lontano, insomma. Nel 2004 il Tribunale di Palermo concede ad Angelo Izzo la semilibertà e lo ritiene ravveduto. Viene trasferito a Campobasso, ma nel 2005 Izzo uccide Maria Carmela e Valentina Maiorano, moglie e figlia di Giovanni Maiorano, boss pugliese e il suo compagno di cella a Palermo. Ma dov'è Andrea Ghira? Perché sparisce pochi minuti dopo il delitto del Ceceo? Quali protezioni utilizza nella sua fuga possibile? Prima traccia, quella non ufficiale. Nel 1975 Ghira non fugge all'estero, ma si nasconde nel nostro paese. Davanti ai magistrati Angelo Izzo lo accusa di aver ucciso la giovane Giorgiana Masi durante gli scontri di piazza avvenuti a Roma il 12 maggio del 77. Secondo Izzo, Ghira avrebbe utilizzato armi in dotazione al gruppo Drago, una struttura parallela di Avanguardia Nazionale. Un'accusa mai provata dai tribunali, come ci ricorda il giornalista e scrittore Gianni Cipriani. L'unica cosa che mi lascia un po' perplesso è la ricostruzione fatta da Izzo, che è una persona che divenne collaboratore di giustizia, ma come dire, con esiti incerti, nel senso che univa cose vere a cose un pochino fantasiose, proprio nel tentativo di acquisire la benevolenza dell'autorità giudiziaria. Su Ghira presente in Italia, che poi è responsabile di Giorgiana Masi, io sarei molto molto cauto, anzi devo dire che a pelle non ci credo affatto. Solo nell'ottobre del 1977 la magistratura spicca contro Andrea Ghira un mandato di cattura per il delitto del Ceceo. lo inchiodano le dichiarazioni di Donatella Colasanti. Secondo questa pista non ufficiale, Ghira resterebbe a Roma. Vive da clandestino e cambia casa di giorno in giorno. Poi si dilegua. Nel 1978 raggiunge l'Argentina grazie a documenti falsi forniti dalla rete di solidarietà dell'Internazionale Nera. Ma a Buenos Aires negli anni 80 non si sente più sicuro. Ghira fugge a Londra, dove nel frattempo si è inserita una comunità di camerati: Massimo Mossello, Roberto Fiore, Vittorio Spadavecchia, Antonio D'Inzillo. La sua identità cambia di anno in anno. Diventa Mirko Elise, poi si trasforma in Sergio Balzanelli. Da Londra si sposta, sue tracce si ritrovano poi a Johannesburg, in Sudafrica e in Kenya. E alla fine diventa ancora un fantasma. Fino a pochi giorni fa. Seconda traccia, quella ufficiale. 8 mesi dopo aver ucciso Rosaria Lopez e si è viziato Donatella Colasanti, Andrea Ghira è già a Madrid, l'ufficio reclute della Legione Spagnola. A disegnare la sua storia segreta è un comunicato del comando del Gran Capitán, la brigata della Legione che ha sede nell'enclave di Melilla, sulla costa marocchina. Secondo la versione ufficiale, Andrea Ghira si trova in Spagna sotto il falso nome di Massimo Testa, fin dai primi anni Ottanta. Nel 1993 viene sospeso per uso e detenzione di sostanze stupefacenti e muore l'11 aprile del 94 per overdose. Questa almeno è la verità fornita da parenti e familiari di Andrea Ghira, oppure l'ennesima messa in scena al quale troppo spesso la storia dell'Italia contemporanea ci ha abituato. Gianni Cipriani, giornalista e scrittore. Non mi meraviglierei molto se emergesse una realtà un pochino più complicata, nel senso che dalla ricostruzione che è emersa c'è questa fuga che sostanzialmente lo porta in Spagna, nella legione straniera, e lì rimane fino alla morte. Noi sappiamo che al di là dei rapporti storici della Spagna all'epoca franchista con la diaspora delle versioni neofascista italiana, sappiamo anche che c'era una rete di solidarietà e di connivenze molto, molto più ampia, per cui non mi meraviglierei assolutamente se Ghira si fosse mosso all'interno di questo circuito. Le reti neofasciste, soprattutto negli anni 70, erano molto articolate. Diciamo, quella che emerge è una ricostruzione talmente lineare da essere poco credibile. Di questa misteriosa vicenda restano comunque alcune certezze. Andrea Ghira è rimasto per molti anni latitante senza che nessuno lo cercasse davvero. E infatti nel 1977, il primo mandato di cattura, 2 anni dopo il massacro del Circeo. In quegli anni la rete di solidarietà dell'Internazionale Nera è attiva. Tutti gli uomini della destra eversiva si muovono tra Madrid e i paesi latinoamericani. Le strade percorse da Andrea Ghira si sono incrociate in quegli anni con quelle intraprese da Stefano Delle Chiaie, Maurizio Giorgi, Carlo De Giglio, Giovanni Ventura, Marco Pozzan e molti altri. Servizi segreti, polizie parallele, strani faccendieri. Chi ha protetto la sua latitanza? Perché lo Stato italiano si è dimenticato così a lungo di Andrea Ghira? Pista ufficiale oppure pista alternativa? Sono domande che ancora oggi non hanno trovato risposta alcuna.